Gladys a ricogliere tutto stracci e idee. Na, na, na. Ma a Roma no, non c'è torna. Vanno forse fini, mori ammazzato. Da sti buoni centurioni che tu sai, che te pregano e te fregano tutti i giorni. In nome della loro autorità, a ridatte quattro quattro in Galilea, quella sì che è una terra produttiva. Arriviate almeno la terra che era tua, dall'occhio vergognoso di un Mosè. Moshe Dayan, questo ho saputo per vie non troppo chiare, da un augusto imperatore che sta al bar. Un ubriacone, non me devi spiegare, oh mio signore, perché adesso tu non stai né qui né là. Figlio mio, io faccio il mio lavoro, duro li buchi dove li posso durare. Adesso sono impegnato su in Irlanda e m'hanno pure incastrato nel Vietnam. Certi signori che so qua quei rifatti, gli americani hanno inventato angeli più forti, i Phantom Mix, che quelli costruiti qui alla Bona. Non c'hanno manco il tempo per volare, c'hanno pure messo de mezzo mio cugino che si chiama sempre Perzebù. E che te devo dire, io non me muovo, io cerco il fresco, io me ne sto qui. Ammazzali Gesù Cri, quanto soffichi, ma chissà che me credevo che stavi a far. Volevo un po' vedere, io sogno che stavi a combinare, ma la cosa che ci frega tutti e due è che noi andiamo ogni giorno a lavorare e che ma guarda un po', ma guarda sto destino, ci tocca starci zitti buoni e sopportare. Facciamo l'affari nostri, non ce li facciamo beccare. vita. Non te fa l'affari tua finché la pace non verrà. E non te fa l'affari tua finché la pace non verrà. Non te fa l'affari tua finché la pace non verrà.